Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Synergy Cube è il nome di un progetto che ha appena ricevuto dalla Commissione Europea un finanziamento ERC da ben 10 milioni di euro, il cui obiettivo è mettere a punto una nuova generazione di catalizzatori basati sul rame per convertire il metano in metanolo. Può sembrare una questione molto tecnica, senza contare il fatto che insomma molti di noi ricorderanno, insomma, il metanolo è tristemente noto più che altro per i suoi effetti nel caso in cui venga ingerito, cioè la cecità. E allora a coordinare il progetto Synergy Cube è Silvia Bordiga, professoressa del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, dove insegna scienza dei materiali e dove si occupa in particolare proprio di materiali per la purificazione e conversione di gas di interesse energetico e ambientale, e quindi è proprio da lei che andiamo a sentire e a farci raccontare un po' meglio di questo progetto. Buonasera Bordiga. Buonasera a voi. Allora Bordiga, come prima cosa le chiedo di farci capire perché è così importante lavorare su questa trasformazione del metano in metanolo, perché appunto sembra una cosa molto da addetti ai lavori, molto tecnica. Perché è così significativo ottenere metanolo? Perché il metanolo è in realtà una molecola che già attualmente viene utilizzata per produrre una enorme variabilità di molecole che entrano direttamente poi nelle sintesi di composti chimici. Tutti i combustibili possono essere preparati a partire dal metanolo, e anche molti monomeri che poi servono per la sintesi dei materiali plastici possono essere utilizzati dal metanolo. Quindi il metanolo è davvero una molecola cardine per una piattaforma di sintesi chimica. Una specie di molecola crocevia, forse la possiamo chiamare così, a partire dalla quale si possono poi prendere molte direzioni diverse e quindi arrivare a prodotti e a composti vari. Un altro motivo per cui varrebbe la pena di trasformare il metano in qualcosa di liquido è che in molti casi il metano viene prodotto in quantità piccole, magari è quasi uno scarto di altri processi, lì viene bruciato perché i gas sono scomodi da trasportare, quindi se riuscissimo invece così a tenerlo lì e a liquefarlo sarebbe un grande vantaggio, anche perché quando va in atmosfera, lo ricordiamo, il metano è un potentissimo gas serra, 20 o 30 volte più potente della CO2. È corretto? È corretto, sì, Bordiga? Assolutamente sì, certo. Nei giacimenti petroliferi, per esempio, che si trovano nel continente africano, il metano che fuoriesce di lì è assolutamente non utilizzato. O finisce in atmosfera o nel migliore dei casi viene bruciato in una torcia. Benissimo, molto chiaro. Dunque Bordiga, la trasformazione del metano in metanolo oggi già si fa a livello industriale, ma con processi molto energivori, con temperature che superano addirittura il migliaio di gradi. Ecco perché sarebbe importante trovare dei nuovi catalizzatori per rendere meno energivoro questo processo, e voi vi state orientando sul rame. Perché il rame, se ci spiega un po' meglio? Allora, attualmente i catalizzatori che vengono utilizzati per la sintesi del metanolo contengono la specie rame, e altro dato significativo è che gli enzimi che attualmente in natura fanno questa reazione in condizioni di reazione blande contengono anche essi ioni rame. Questi enzimi sono però molto fragili e quindi non è pensabile di utilizzare questi enzimi per un processo industriale. Nel contempo noi stiamo studiando dei sistemi sempre biologici più semplici e anche però più robusti, che attualmente fanno una reazione simile ma non la conversione del metano in metanolo. La nostra idea è di insegnare agli enzimi più robusti e semplici che potrebbero essere implementati in un processo industriale a fare meglio la reazione di conversione metano-metanolo. Contestualmente invece sul fronte dei catalizzatori di natura sintetica miglioreremo le prestazioni di catalizzatori che già utilizziamo in questo momento e che al momento fanno questa reazione, ma la fanno con tempi molto lunghi, troppo lunghi per essere proponibili da un punto di vista su uno scenario industriale. L'idea è di migliorare le prestazioni di questi catalizzatori, aumentando il numero di specie capaci di fare questa reazione, mantenendo la selettività, cioè la capacità di produrre solo metanolo e non una varietà di prodotti che poi dovrebbero essere separati, certo. E quindi questo comporterebbe uno spreco di risorse. Per un momento, se ho ben capito, avete anche accarezzato l'idea di utilizzare degli organismi viventi che fanno questa attività, che sono capaci di trasformare il metano in metanolo, anche se con dei limiti. Sì, adesso ci sono degli enzimi, come vi dicevo, che già fanno questa reazione, ma sono troppo fragili da maneggiare. E quindi la nostra idea è di svilupparne dei nuovi, che sono più robusti, che conosciamo già. D'accordo, d'accordo. Quindi quegli enzimi di cui parlava derivavano appunto da questi microorganismi, mi sta dicendo in pratica. Senta, c'è anche una grande valenza scientifica in questa ricerca, perché va a toccare, come dire, un particolare legame chimico che è estremamente importante nella biologia e non solo. Sì, si tratta dell'attivazione del legame CH e in realtà se noi riusciamo a svelare il meccanismo con cui riusciamo a controllare la reazione da metano a metanolo, avremo poi le porte aperte per molte altre reazioni. La difficoltà è che il metanolo è molto più reattivo del metano e quindi il prodotto reagisce più velocemente del reagente. Quindi quando si inizia la reazione diventa difficilissimo fermarla, esatto. Molto rapidamente si arriva a quella che è la reazione più tipica, che è quella della combustione, certo. Ma certo. A questo punto abbiamo sprecato tutta l'energia, se non volevamo ottenere semplicemente calore. Va bene, allora grazie professoressa Bordiga e alla prossima. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori. L'appuntamento con Smart City torna come sempre domani qui su Radio 24 alla stessa ora. Buona serata.